Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la puntata odierna di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, riprenderemo alcuni degli elementi che stanno emergendo anche da Davos, presentati ieri, il rapporto sull'inclusione da un lato e sulle disuguaglianze sociali, cercando, così raccolgo anche l'invito di alcuni ascoltatori, di capire nella classifica di Oxfam non si riferisce la classifica, poi ne parleremo, al reddito prodotto ma ai patrimoni. E qui può in qualche modo formulare una critica alla classifica stessa, ma ne parleremo tra pochi minuti. Ancora, per quello che riguarda Davos, segnalo l'intervento, poi lo ricorderemo, del primo ministro, del numero uno cinese, che adesso ti dà anche la dimensione di come stiano cambiando i tempi. Cioè, avere la Cina che va a difendere la globalizzazione e la non apertura e soprattutto la non costruzione di nuove barriere, tradice lunga su un paese che si è sempre protetto e adesso invece teme. Chiaro che di mezzo c'è l'ondata, chiamiamola così, trumpista o di Trump, teme un irrigimentarsi del libero scambio a livello mondiale. Parleremo però anche di quello che riguarda i casi di casa nostra e nello specifico, al di là della borsa che adesso ricorderò, quanto sta capitando alla fiera di Milano dopo le dimissioni del Consiglio di amministrazione, viene commissariata da un lato, e dall'altro invece ci spostiamo in Gran Bretagna, dove Theresa May ha illustrato il piano che Londra intende adottare nei negoziati con Bruxelles e che dovrebbero iniziare dopo l'attivazione del dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, previsto entro fine di marzo. A quel punto Londra avrà 2 anni per trattare sul divorzio, chiamiamolo così. Il piano prevede in tutto 12 punti negoziali. Quello più importante, che riguarda di più lo scambio e anche il contrasto con l'Europa, è quello che riguarda il controllo alle frontiere per limitare gli ingressi anche dai paesi dell'Unione Europea. La May quindi ha rifiutato l'ipotesi di adesione parziale al club dei 28 per il Regno Unito. Ha detto: noi vogliamo restare in ottimi rapporti con i singoli stati e commerciare con loro nel modo più libero possibile. E vedremo anche varie ipotesi su questo. I mercati erano nervosi sulla May, devo dire che poi hanno reagito in maniera anche positiva, tranne Londra. Londra perde l'1,24%, Francoforte e Parigi sono invariate, Milano guadagna lo 0,40%. Perché Milano fa un po' meglio delle altre? Perché UniCredit guadagna il 4,60%, UbiBank il 3,60%, Banco BPM il 2,60%, Saipem il 2,30%, Fiat l'1,80%, B per l'1,60%. Luxottica oggi ritraccia poco dopo il balzo di ieri alla notizia dell'accordo con i francesi, meno 0,50%, Buzzi Unicem perde il 2,33%, Telecom Italia l'1,60%, Ferrari l'1,40%, Mediobanca l'1,1%, Moncler l'1% di calo, in leggero rafforzamento l'euro su dollaro a quota 1,07. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi c'è sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, parleremo anche dell'indice di Gini, parleremo dell'altra classifica diffusa da Davos, quella dell'inclusione. E cioè quanto si riesce in un percorso di crescita, di ridistribuzione, a portare dentro il maggior numero possibile di fasce della popolazione. Parleremo anche dell'indice di Gini, figuratevi se non citiamo anche questo caso, ma andiamo avanti con questo dato. L'indice di Gini, lo dico per chi è in ascolto, è l'indice che va a misurare le disuguaglianze, va da 0 a 1 e va a misurare quanto è alta la disuguaglianza tra classi e corpi sociali all'interno di un paese. Comunque, dicevo, per quello che riguarda le altre notizie di carattere internazionale, oggi con l'acquisto da parte di British American Tobacco del 58% di Reynolds per un corrispettivo di quasi 50 miliardi di dollari, nasce il numero uno al mondo nella produzione di tabacco, mentre per quello che riguarda la, quelli che alcuni chiamano Trumpedia, ma insomma Trump non sta certo, ci fa lavorare, non sta certo lesinando le notizie e i commenti. Allora, General Motors oggi ha replicato a Trump e ha annunciato l'investimento di un miliardo di dollari ulteriori negli Stati Uniti dopo i 2 miliardi 900 milioni nel 2016 che portano gli investimenti dal 2009 di General Motors negli Stati Uniti a 21 miliardi. Lo ha detto Mary Barra, l'amministratore delegato di General Motors: gli Stati Uniti sono il nostro mercato interno, siamo impegnati in una crescita positiva, con la base manifatturiera negli Stati Uniti che aumenta la sua competitività, siamo in grado di aumentare ulteriormente i nostri investimenti. Devo dire una cosa, che oggettivamente ho visto un sondaggio in cui della rete ABC, in cui Trump era il presidente col gradimento più basso nella storia degli Stati Uniti, per carità. Però è indubbio che sulle grandi aziende americane, grandi colossi dell'auto americano, l'appello di Trump, l'appello, invito abbastanza duro di Trump, stia avendo un effetto. Cioè, quando uno poi vede che General Motors dice investiremo un altro miliardo di dollari, lui poi ha gioco facile nel twittare con tutti i posti di lavoro che sto riportando negli Stati Uniti ancora prima di assumere l'incarico, con tutti gli stabilimenti automobilistici che tornano nel paese, in massicci tagli dei costi che sto trattando, ritengo che gli americani stiano vedendo grandi cose. Allora, non ci sono ancora i posti di lavoro, però è innegabile che il fronte politico, e dal punto di vista politico, lui abbia già ottenuto un primo risultato. Obbligare i leader, poi ringraziando da un lato Ford, da un lato Fiat Chrysler, e non ringraziando General Motors, mettendo in difficoltà Toyota, cioè, il tema l'ha posto tutto. Il sondaggio a cui facevo riferimento invece di ABC sottolinea come il presidente eletto meno popolare nella storia, prima del giuramento del 40% la sua popolarità, contro il 79% di Obama. Lui risponde: le stesse persone che hanno fatto i sondaggi elettorali falsi ed erano così sbagliati, ora stanno facendo i sondaggi sulla mia approvazione, sono truccati come i sondaggi falsi del pre-elezione. Allora, in Gran Bretagna l'inflazione sale ai massimi da 2 anni e mezzo a questa parte, all'1,6%, i consumatori sono colpiti dalla sterlina debole dopo la Brexit. Tra l'altro, ripeto, Theresa May oggi ha detto: stiamo abbandonando l'Europa, pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth, costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale. È mancata la flessibilità da parte dell'Unione Europea, non vogliamo che l'Unione si smembri ma che impari la lezione, l'accordo lo faremo entro 2 anni ma sarà flessibile, avremo un controllo sull'immigrazione anche dai paesi dell'Unione Europea. Allora, tutto si può dire, una cosa però per la verità fattuale, che la Gran Bretagna si lamenti di Unione Europea, non ha mai avuto l'euro la Gran Bretagna ovviamente, in cui riceveva più di quanto non versasse dal punto di vista dei contributi dell'Unione Europea, insomma, la flessibilità non ho capito quale, aveva ottenuto Cameron a febbraio dell'anno scorso un accordo stravantaggioso, poi ha voluto fare il referendum e ne ha pagato le conseguenze. Si può dire tutto, non può dire che non aveva più interesse la Gran Bretagna a stare nell'Unione Europea, tutto quello che volete, ma non dire che nei confronti della Gran Bretagna Bruxelles fosse poco flessibile. Avevano un accordo strafavorevole, già frutto, diciamo, e figlio dell'accordo originario di Margaret Thatcher, per cui su. Poi uno può pensarla come vuole sul restare o no nell'Unione Europea, ma almeno mantenesse i fatti. Noi siamo contribuenti netti, per esempio, versiamo più di quanto riceviamo, la Gran Bretagna non l'è mai stato. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. A 7 mesi dal referendum che ha sancito la Brexit comincia finalmente a prendere corpo il percorso che porterà al divorzio la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Sarà una separazione netta, completa, proprio quella hard Brexit di cui a lungo si è parlato e che è stata oggi illustrata dal primo ministro Theresa May, che ha anche indicato i 12 obiettivi del suo paese, a partire da quello di mettere fine alla libera circolazione delle persone. Ecco, che cosa significa hard Brexit? Beh, significa che la Gran Bretagna è intenzionata a uscire dall'Unione Europea, ma anche dal mercato unico europeo, cioè da quell'insieme di regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Alcuni paesi che non sono nell'Unione Europea aderiscono però al mercato unico, lo fanno per esempio la Norvegia, in parte la Svizzera. Bene, Londra pensa invece a un nuovo trattato per riformulare completamente tutti i rapporti con i paesi dell'Unione Europea. La May ha insistito sulla volontà e sulla disponibilità proteggere i diritti dei lavoratori europei, ma ovviamente ancora nessuno conosce le modalità e sappiamo quanto questa preoccupazione sia elevata, ad esempio, tra gli italiani che lavorano a Londra. Sarà un percorso lungo, l'Europa naturalmente non starà a guardare, non lascerà a Londra la regia di questo complicato divorzio. È presto per dire che cosa accadrà concretamente, ma è evidente che rischi di protezionismo e di guerre commerciali sembrano davvero dietro l'angolo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo già molti messaggi su WhatsApp, un'informazione di servizio, anche se, mi scrivono alcuni, vediamo che arrivano ma non li vediamo letti, no, io li scorro tutti, poi delle volte non entro, quindi non vede, diciamo, che vengono letti, ma li leggo tutti, diciamo, scorrendoli. Ho detto che uno può pensarla come vuole, alcuni mi scrivono, guardi che la Brexit non è solo una questione di soldi, è anche la dignità e il controllo dei flussi migratori, l'autonomia, tutto vero, cioè uno può pensarla come vuole, ho solo detto che dire che Bruxelles doveva essere più flessibile nei confronti della Gran Bretagna da parte di Theresa May è una bestialità, perché l'unico paese forse con cui da sempre l'Unione Europea ha avuto una flessibilità totale è stata la Gran Bretagna. Poi ancora giornalisti con la tutina di sinistra, comunisti, non ho capito cosa avrei detto di comunista e di marxista nel ragionamento sulla Gran Bretagna, ma andiamo avanti con invece il rapporto tra l'Italia, questa volta, e Bruxelles. La Commissione Europea ha inviato infatti all'Italia la lettera con la richiesta di un aggiustamento dei conti, lo ha confermato il portavoce della Commissione Margaritis Schinas, la stanno valutando gli uffici del Ministero dell'Economia e poi comunque confermato che Bruxelles chiede una correzione dello 0,2% del PIL. Se, come e quando intervenire verrà deciso dal governo nei prossimi giorni, quindi in questo momento è una posizione attendista la nostra. Nel frattempo il ministro dell'economia ha chiarito, vedremo se serviranno altre misure, la via maestra resta la crescita, stupito dalla revisione del Fondo Monetario Internazionale, ha detto sempre Padoan, perché non argomenta i motivi per cui riduce, e non di poco, dallo 0,9 allo 0,7 quest'anno e dall'1,1 allo 0,8% l'anno prossimo, la nostra crescita. Quindi devo dire una cosa, cioè, ho capito, Padoan sta pigliando tempo, è ovvio che la via maestra resti la crescita, il problema è che in questo momento non c'è nessun segnale di una crescita più forte da questo punto di vista. Comunque sentiamo Padoan sui due aspetti. Bruxelles ci ricorda che l'Italia ha un debito troppo alto, e questo lo sappiamo tutti, è un debito che avrebbe dovuto cominciare a scendere da quest'anno, che non lo ha fatto perché purtroppo siamo stati in deflazione nel 16 e le condizioni di mercato non ci hanno permesso di completare il programma di privatizzazioni. Detto questo, il programma di privatizzazioni quest'anno prenderà di nuovo quota e inoltre noi ci aspettiamo una crescita più elevata anche dal punto di vista nominale. Vedremo se sarà il caso di prendere misure ulteriori per rispettare gli obiettivi. Però vorrei ricordare una cosa che ho detto tantissime volte. La via maestra per abbattere il debito è la crescita, quindi la crescita che è priorità del governo. Sono un po' stupito perché le ragioni che vengono addotte dal Fondo Monetario per dire che la crescita sarà più bassa sono che ci sarà più incertezza politica, che secondo me è difficile da argomentare, soprattutto dopo il referendum e il nuovo governo in continuità con quello precedente, e che ci saranno problemi con le banche. Anche qui il governo ha preso importanti misure proprio per fronteggiare situazioni bancarie che in ogni caso non sono preoccupanti, e quindi io non sono molto d'accordo con quelle stime del Fondo. Allora, andiamo da Vosco. Qualcuno mi chiede, mi piacerebbe un confronto pubblico fra Sebastiano Barisoni e Oscar Giannino. Guardate, insomma, che io Oscar Giannino la pensavo in maniera molto diversa sulla Germania, sulle politiche. Insomma, lui è un liberista da sempre, a mio avviso un iperliberista, ma non si offenda, e lui ritiene che io sia troppo statalista, troppo keynesiano. Vabbè, ma il bello di una radio è anche avere due opinioni diverse, o volete il pensiero unico? Allora, andiamo su Davos. Mentre oggi appunto la difesa della globalizzazione la fa la Cina, la globalizzazione non è l'origine del problema, dice il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, e oggi intervenuto a Davos: le regole del commercio globale sono datate, vanno rimodulate, dobbiamo dire di no al protezionismo, tutti i firmatari rispettano gli accordi di Parigi sul clima e le conquiste della Cina vanno a beneficio del resto del mondo. Si sono invertiti i ruoli, qui c'è una Cina che dice difendiamo l'accordo di Parigi sull'ambiente perché ha paura che Trump lo faccia saltare, e difende la globalizzazione. E vabbè, anche questo è il segno dei tempi. Ma ieri eravamo rimasti con due rapporti presentati come sempre alla vigilia di Davos, e cioè quello di Oxfam a livello mondiale sulla disuguaglianza, l'1% più ricco come il 99% più povero. Anche in Italia 7 paperoni hanno il 25% della ricchezza, e i primi 8 miliardari al mondo hanno la ricchezza dei 3 miliardi e 600 milioni di persone. E poi invece quello sull'inclusione, in cui citeremo anche il coefficiente di Gini. Di nuovo saluto e ringrazio Elisa Bacciotti, direttore campagna di Oxfam Italia. Buonasera Bacciotti. Buonasera. E ricordo di nuovo, per obbligo di disclaimer, che io faccio parte a titolo gratuito del Consiglio di Amministrazione di Oxfam Italia. Grazie anche a Maurizio Quintavalle, che è responsabile di Marsh Risk Consulting, tra i curatori del rapporto Global Risk Report, giunto al 2017. Di inclusione invece parleremo domani, perché avremo un altro ospite per parlare appunto di inclusione e indice di Gini. Comunque, Bacciotti, la critica, mi scusi, più forte che viene fatta al rapporto di Oxfam, che ieri abbiamo ricordato, era su tutti i giornali, le agenzie, è che andate a paragonare il patrimonio e non il reddito. Cioè, voglio dire, è chiaro che se io sono un povero o parto da una condizione di povertà e poi mi costruisco una carriera, il mio patrimonio, se non negli anni finali della mia vita o nella parte, diciamo, finale della mia carriera, sarà basso all'inizio, perché tutto il reddito che gestisco sarà fatto per mettere da parte 2 lire, comprare una casa, e qua, ma non è paragonabile al patrimonio di chi invece magari non sta producendo reddito, ma vuoi per eredità, vuoi per attività passate, un grande patrimonio. Il che non cambia molto nel dire che quando tu vedi che Bill Gates ha 75 miliardi di patrimonio, Ortega 67 miliardi, Buffett 60 miliardi, Carlos Slim 50 miliardi, Jeff Bezos 45 miliardi, Zuckerberg 44 miliardi, Reilly Ellison 43 miliardi e appunto Bloomberg 40 miliardi siano miliardari. Però dentro questo entra anche la quota societaria degli imperi che hanno costruito. Non sarebbe più corretto farla sul reddito disponibile? Guardi, intanto grazie per questa domanda, perché mi dà l'opportunità di rivolgere un invito ai suoi ascoltatori. Andate a leggere il rapporto che è sul sito di Oxfam Italia, un'economia per il 99%, perché il rapporto entra proprio su questo punto e risponde anche bene a questa argomentazione. Infatti, quello che noi vediamo, al di là del dato, se vogliamo, shock, il dato sulla ricchezza netta globale, 8 uomini che possiedono quanto la metà più povera del pianeta in termini di ricchezza, il rapporto evidenzia molto bene che anche in termini di disuguaglianza di reddito negli ultimi 30 anni le cose si sono fatte via via più estreme. Le voglio citare questo dato. Tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più povero della popolazione mondiale è aumentato di $65. Si parla di meno di $3 all'anno. Nello stesso periodo di tempo l'aumento del reddito medio dell'1% più ricco della popolazione è stato di $11.800, ovvero più di 180 volte quanto aumentato il reddito del 10% più povero. Quindi si tratta di una disuguaglianza che purtroppo attiene la ricchezza netta, ma attiene anche il reddito e attiene una realtà che si sta verificando nei paesi più poveri, nei paesi emergenti e anche nei paesi più economicamente avanzati. Ecco, su questo voi fate sempre un appello prima di Davos, ma Davos io non è che l'ami molto, Davos, una ridente mica tanto, è freddissima, località svizzera dove ci si incontra, vabbè, si fanno affari, quello va bene, ma non ne ha imbroccata, adesso dito con il massimo rispetto, ricordo ancora quando intervenne Nouriel Roubini nel 2007 che venne quasi preso in giro dall'allora ministro Tremonti dicendo arriverà una crisi epocale, poi è arrivata, ma a Davos nessuno aveva avuto la percezione l'anno prima, per cui non sto difendendo Davos, dico solo che il titolo di quest'anno è Leadership preparate e responsabili. Che cosa potete fare come pressione sulle leadership, visto che ci sarà, oltre al premier cinese che è già arrivato, ci sarà Jack Ma, fondatore di Alibaba, il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, Joe Biden che è vicepresidente ancora per poco degli Stati Uniti, Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internazionale, Theresa May andrà appunto primo ministro britannico. Qual è la pressione che si può fare? Perché il tema dell'aumento del reddito, così come dell'aumento del patrimonio, pur essendo due cose molto diverse, è un tema che si può risolvere con politiche redistributive, quindi andiamo poi sul tema di domani, come politiche più inclusive. Certo, allora Davos ha i suoi limiti, prima di tutto è naturalmente un momento informale, no? Non è un momento formale, decisionale, come possono essere anche i G7, i G20 o anche altri forum, però in questo senso c'è anche un'opportunità, perché molti leader politici ed economici si incontrano per discutere sia in sessioni appunto formali e pubbliche e anche in sessioni più confidenziali. Ecco, questa elite politica ed economica deve iniziare, se vuole essere una elite, una leadership responsabile, a discutere e a realizzare che questo attuale modello economico di fatto non serve più le esigenze della società e le esigenze del pianeta e bisogna andare verso un modello che funzioni per il 99%. È questo il senso dell'appello che Oxfam vuole fare e quindi invita anche i cittadini italiani a unirsi con i cittadini del mondo nella firma e nella promozione di una petizione che si trova sul nostro sito e che può essere, come dire, riassunta nel concetto per un'economia umana, per un'economia che funzioni, direi, per il 100% di noi. Quindi, allora, io non so se per il 100% sia possibile o non sia un'utopia, però che funzioni un po' meglio, questo lo si può dire. Allora, giustamente un ascoltatore mi dice, ma sarebbe interessante sapere se questi 8 pagano almeno la metà delle tasse o del pianeta, o l'equivalente, visto che hanno da soli l'equivalente di 3,6 miliardi di persone più povere, se pagano l'equivalente in tasse. E qui c'è un problema, perché qui dobbiamo andare poi Baciotti, l'elemento redistributivo da sempre dal mondo occidentale, diciamo, si chiama tassazione, non aumento della tassazione, ma tassazione di diverso genere, e nessuno sta dicendo aumenta la tassazione. Allora, io ricordo benissimo quando Warren Buffett, che nella classifica è praticamente al terzo posto con 61 miliardi di dollari di patrimonio, disse è inaccettabile che io paghi, adesso andiamo a recuperare la percentuale che dura negli Stati Uniti, delle tasse così basse per i miei guadagni da capitale, per il mio patrimonio, quando un operaio o comunque un dirigente, un manager, è tassato a un livello molto più alto. E parlava degli Stati Uniti, figuratevi da noi, dove appunto tutta la tassazione è sempre ed è quasi esclusivamente su chi il lavoro lo fa, lo produce o lo dà. Ecco, pagava Warren Buffett, sua dichiarazione, il 17% di tasse. Ed è lui ad aver detto, e lo trovo ingiusto e inaccettabile, perché comunque in America, dove le tasse sono più basse, chi lavora e ha un reddito medio ha sicuramente una proporzione molto più alta. È lì che si andrà poi a parare. Bacciotti, ne chiedono una revisione anche del tipo di prelievo, non un aumento del prelievo fiscale. Esatto, il tema è proprio questo. Di fatto oggi, e lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale, non solo le organizzazioni non governative, la mancanza di progressività nella tassazione è all'origine sia anche dell'incapacità spesso dei governi di riuscire ad attrarre le risorse necessarie per investimenti pubblici, per esempio in servizi come cure sanitarie e salute. Quindi c'è un tema di recuperare la progressività del nostro sistema fiscale e del sistema fiscale naturalmente in molti paesi. C'è un tema, poi lo ricordava, di redistribuire tramite politiche economiche fatte a questo scopo. Ecco, in questo senso mi viene da citare anche i recenti lavori dell'OCSE, che ci dice che redistribuire non vuol dire togliere risorse per superare la crisi economica. I dati, le ricerche di questa importante istituzione dimostrano che politiche redistributive fatte bene, fatte in modo da dare risorse a chi le può reinvestire, quindi non solo, come dire, tenendole sugli ultramiliardari, non solo non crea danni, ma è efficace a una crescita e quindi a una creazione di maggior benessere nelle nostre società. Allora, grazie a Elisa Bacciotti, direttore delle campagne di Oxfam Italia. Almeno lo dico a chi giustamente esprime obiezioni, andate sul sito di Oxfam Italia, andate a vedere il rapporto che ha la parte che più viene ripresa sui patrimoni, perché fa anche più notizia. Ma ripeto, può essere criticata sul fronte, diciamo, analitico, però dice ok, ma vai a vedere se la parte più povera non ha un maggiore aumento del reddito, e quindi vai a confrontare anche il reddito, perché è chiaro che se io parto da un livello, lo ripeto ancora, più basso nella classe sociale, il mio patrimonio per molti anni sarà pari a zero o sarà pochissima cosa, ma magari il mio reddito continua a aumentare in maniera significativa, mentre ci può essere uno che ha un grande patrimonio ma ha un reddito più basso, comunque non un incremento. Il problema è che un andamento simile lo si vede anche nel reddito, e infatti domani, quando parleremo dell'indice di Gini e dell'inclusività, ricordo che l'ultimo rapporto dell'OCSE segnala come l'indice di Gini va da 0, quando c'è una perfetta equità, a 1, che è la massima disparità. Allora, l'Italia l'ha sempre avuto abbastanza basso come indice rispetto ad altri paesi, però sta leggermente crescendo, dallo 0,313 nel 2007 a 0,325. Uno degli incrementi maggiori nell'OCSE, dove i paesi invece hanno avuto mediamente un calo dell'indice. Ripeto, noi partivamo da un livello più buono, migliore da questo punto di vista rispetto ad altri paesi, però il nostro livello continua a peggiorare. Quintavalle, dopo il meteo e la pubblicità, invece il Global Risk Report 2017, giunto alla 12ª edizione, e quindi prospettiva dei rischi a più alto impatto e più probabili nei prossimi 10 anni. Avete la sfera di cristallo, ce lo spiega dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Allora, Global Risk Report presentato a Davos, 12ª edizione, disuguaglianza economica anche per voi, polarizzazione sociale, questo poi vuol dire sempre di più a chi già ha e sempre di meno a chi ha meno, adesso la dico in maniera un po' banale, ma è così, e quindi l'indice, il coefficiente di Gini, e l'intensificarsi di rischi ambientali, sono queste le tre macro tendenze nei prossimi 10 anni. Tra l'altro voi avete interpretato 750 esperti che hanno valutato 30 diversi rischi globali, 13 tendenze. I cambiamenti climatici, insomma, non è una novità. Mi sembra che stia emergendo invece come anche conseguenza di alcune analisi sul voto, su alcuni di questi voti di quelli degli ultimi 7-8 mesi, penso a Trump, la Brexit, ma non solo, anche i partiti chiamati così populisti in Europa, che vi stiate concentrando oltre che sui cambiamenti climatici, sulla crescente anche voi disparità di reddito e di ricchezza e l'aumento dei fenomeni di polarizzazione, ho capito bene? Sì, assolutamente sì. L'aspetto di polarizzazione per questa edizione ha rappresentato, diciamo, l'aspetto più importante, perché nasce principalmente da appunto il panorama che lei ha illustrato poco fa, con riferimento allo stesso tempo anche per quello che riguarda il team di collaborazione dell'Italia, anche con quanto avvenuto con il referendum, e quindi un'opinione che non è più un'opinione che ha vari colori, ma si passa dal bianco al nero, e concetti legati al mondo dell'immigrazione, chi è contro e chi è a favore. Quindi tutto questo porta poi allo stesso tempo, declinato con riferimento a tematiche anche economiche, ad aspetti soprattutto di disparità economica. L'altro elemento caratterizzante proprio il voto, Trump, la Brexit e quant'altro, è stato il concetto del post-truth. Come diceva lei, noi per nostra sfortuna non abbiamo la sfera di cristallo, ma nel 2013 abbiamo iniziato a parlare di questo concetto di post-truth, quindi l'informazione che viene veicolata e non necessariamente deve essere un'informazione reale, probabilmente, anche se non reale, ma detta col giusto impeto e detta da determinate persone, questa sortisce un effetto positivo. E confermo, ho visto che la BBC, cioè tra virgolette la BBC, insomma, è un riferimento altissimo, cioè tra virgolette anticipato, ma io confermo che partiamo a brevissimo con la rubrica settimanale Le balle della rete sull'economia. Vedo scuotere teste in regia, la faremo comunque, ma la faremo, perché una settimana voi che non la stiamo già raccogliendo insieme i dati. Però torniamo ai rischi. Allora, se ho ben capito, tutto questo accento sulla crescente disparità di reddito, di ricchezza, diciamola tutta adesso, Quintavalle, non è mai fregato nulla per anni, e penso fino al 2008, quando noi abbiamo raccontato come la retribuzione media del top manager americano delle prime 100 corporate sia passata da 74 volte il reddito del dipendente base a 241 volte prima della scoppio della crisi, e non che negli anni 70 o negli anni 60 non sapessero fare impresa. Cioè, e la divaricazione poi ha avuto un'accelerata totale dalla finanziarizzazione dell'economia, quindi bonus, stock option e quant'altro. Non è mai fregato nulla. Adesso io ho la sensazione che, siccome, come diceva il nostro mitico Sapelli, si muovono le masse, ossia vanno al voto e bastonano tutto ciò, a torto ragione, che sembra ricordare l'elite, quindi gli happy few, i pochi felici, chi vive nella casta, che a torto ragione, ma quella è la tendenza, improvvisamente la disuguaglianza, la disparità diventa un rischio politico, perché hanno bastonato alcune categorie di politici. Vorrei capire se poi si va anche al passaggio successivo. Bene, se tu ritieni che l'ondata populista, chiamiamola così, sia frutto è anche demagogica, per cui va a premiare un miliardario americano perché è convinto che sia lui più vicino ai poveri rispetto alla casta, è frutto di questo aumentare delle disuguaglianze, il passo successivo è iniziare a parlare di come si riducono le disuguaglianze. Dopo il traffico, la risposta. Focus Economia. Beh, devo dire che questa volta un ascoltatore ci ha azzeccato. Sembra una barzelletta. Sai cosa fanno 100 multimiliardari a Davos? Parlano di disuguaglianze sociali. E ricordo un po', adesso mi passi la battuta, Quintavalle, Maria Antonietta con il famoso dategli le brioche, il popolo ha fame, non ha pane, dategli le brioche. Allora, si riuscirà ad andare oltre così l'analisi, per carità, preoccupata, pro domo tua, perché è chiaro che se le masse, come le chiama in senso alto, non in senso dispregiativo, Sapelli, si muovono nelle democrazie, piaccia o non piaccia alle elite, determinano poi l'orientamento politico di quelle democrazie. Ora capisco che le elite si spaventino, però se vogliono essere credibili devono andare avanti con le proposte. Io per esempio di una maggiore tassazione progressiva sui redditi, sui patrimoni, non ho mai sentito parlare. Prego. Allora, guardi, l'obiettivo del report sicuramente, certo, è sensibilizzare, benché nasca con l'idea nel 2006 di identificare i rischi che si verranno a verificare tra 10 anni, nel 2011 se n'era parlato. L'obiettivo è quindi, allo stesso tempo, identificare il rischio per trovare l'opportunità e il miglioramento di questo. Ha ragione, cioè l'obiettivo quest'anno, soprattutto poi con riferimento anche a tutto quello che è il mondo delle biotecnologie, dell'intelligenza artificiale, quindi quello che questo tipo di rischi ci porterà fra 10 anni e quali possono essere le opportunità per mitigarle. Nel caso specifico, sin dal 2011 si è sempre parlato di gestire in maniera più consapevole da parte di tutti gli stati, perché non ci dimentichiamo che comunque è un report planetario, e la condivisione degli intenti, che sembra qualcosa così, mi lasci dire, come uno slogan, ma questo è l'obiettivo che stiamo cercando di perseguire, quindi cambiamenti economici e allo stesso contempo la gestione della velocità della tecnologia con dei governi che devono essere allo stesso tempo sempre più stabili. Questo è uno dei messaggi che noi portiamo all'interno del report e che continueremo a perseguire, le dico la verità, anche nei prossimi anni, perché comunque l'obiettivo del Risk Report è avere a bordo tutti quanti gli stati affinché si riesca a mitigare tale aspetto, connesso anche all'aspetto dell'immigrazione che l'anno scorso ha avuto un ruolo importante. Sì, e che tra l'altro voi nel vostro rapporto, tra l'altro la sfida è anche quella dei flussi migratori, ma anche l'interconnessione tra disoccupazione e sottooccupazione, quindi la profonda instabilità sociale. Sì, tutto bene, non siete voi a dover fare le politiche, tutto, quindi la colpa non è vostra, però è la quarta rivoluzione industriale con tutte le opportunità, ma anche i rischi che ha, quindi il mondo che deve tenere passo ai cambiamenti tecnologici, tutto bene. Se però viene levata la terra sotto i piedi delle elite politiche che hanno governato bene o male, adesso ognuno la pensa come vuole, fino a questo momento la globalizzazione, è chiaro che la risposta però la deve dare la politica, perché non puoi chiedere ai manager bancari che già sono tornati negli Stati Uniti a riprendere i soldi che pigliavano prima del 2008, o che a casa nostra abbiamo visto in maniera allucinante, penso alle banche popolari, penso agli scandali arraffare l'arraffabile, e adesso contestano pure quando gli vengono fatte le cause di risarcitorie, insomma contestano pure, insomma non lo puoi chiedere loro. L'unico soggetto che può avere una lungimiranza per non far la fine del tacchino a Natale è la classe politica, se ce l'ha, perché altri non è che puoi chiedere ai banchieri di non essere avidi, insomma sono contraddizioni, come chiedere a una modella di essere grassa, no? È impossibile. Allora, qualcuno si offenderà come banchiere, ma poi facciamo sentire anche Gordon Gekko, che è un po' che non lo sentiamo, e io nel frattempo sto sviluppando un bisogno proprio epidermico e viscerale, oltre che epidermico, di Giulio Sapelli. Forse venerdì lo facciamo venire. Intanto grazie anche per il rapporto di quest'anno a Maurizio Quintavalle, capo appunto di Marsh Risk Consulting. GR24 e poi andiamo sulla borsa, più 0,25%, Unicredit più 3,5%, Telecom meno 1,70%, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi sia su WhatsApp che come SMS sul tema delle disuguaglianze. Ne parleremo anche domani sul rapporto presentato da Voss sull'inclusione. Però guardate che insomma è chiaro che si stiano muovendo le elite perché hanno preso paura a essere buoni dai risultati elettorali, però la lungimiranza della classe politica deve essere anche quella. Qualcuno mi scrive: se no finisce come la rivoluzione francese. Adesso non lo so, però so che se il tema non resta solo, resta solo un tema di dibattito, di analisi, non si va da nessuna parte. Poi ci vuole qualcuno che abbia il coraggio anche di proporre politiche di maggiore inclusione redistributive. Molto banalmente è chiaro che l'esempio della rivoluzione francese è quello che è anche più drammatico per quello che poi è successo con la deriva giacobina, e non solo quella. Comunque andiamo sulla borsa oggi, o meglio adesso. Per quello che riguarda Milano è l'unica che chiude leggermente in rialzo, più 0,25%, perché Parigi alla fine fa meno 0,46%, Francoforte meno 0,13%, Londra meno 1,50%. Di Londra parleremo fra poco per l'intervento di Theresa May sulle tappe della Brexit. UniCredit più 3,5%, UbiBanca più 3,40%, Banco BPM più 2,30%, BPerBanca più 1,60%, Comexor Enel più 1,12%. Tra l'altro oggi è intervenuto sul tema delle banche popolari anche il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini nel corso di un'audizione delle commissioni congiunte di commissione finanze congiunte di Camera e Senato. Ha detto: occorre intervenire urgentemente sulle norme che regolano la trasformazione delle banche popolari, perché insomma l'incertezza a questo punto è massima. Sarebbe necessario poter avere chiarezza, perché l'incertezza potrebbe creare anche delle ripercussioni sui processi di rafforzamento patrimoniale delle banche interessate, e quindi potenzialmente aprire nuovi fonti di difficoltà per il settore bancario. Allora, commentiamo adesso la borsa. No, devo rispondere a un ascoltatore che dice: ma tutti questi cripto marxisti dove cavolo erano negli anni 2000, quando guardi, è molto è vero che nessuno ha vigilato, e anzi gli anni 2000 sono quelli della deregulation massima nella finanza. Pensate al Glass-Steagall Act che viene abolito da Clinton, separazione tra banca che fa affari, banca che gestisce la clientela e i risparmi. Ma c'era un mondo che comunque, drogato dalla turbofinanza, cresceva, e quando tu hai un mondo che cresce, i redditi comunque crescono, la disoccupazione diminuisce. È chiaro che il tema non si pone con tale forza. È adesso, dal 2008-2009 in poi, soprattutto in alcune economie tra cui la nostra, che il tema emerge con più forza, o con anche negli Stati Uniti, dove il lavoro si è creato, ma si è creato di bassa qualità come salario e come reddito disponibile. Comunque torniamo sulla borsa, dicevo, perché sennò oggi non riusciamo ad andare avanti, ma mi rendo conto che il tema sia a cavallo tra economia e politica. La borsa, come sempre, con Radio Corriere Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, di negativo invece c'è oggi Telecom Italia meno 1,70, Buzzi Unice meno 1,60, Moncler meno 1,5, Ferrari meno 1,20, come Unipol e Mediobanca, Yux Net a Porte meno 1%. Tra l'altro devo dire che oggi ha recuperato anche Fiat Chrysler l'1%, Exor l'1,55%, nel giorno in cui abbiamo avuto i dati sul mercato europeo delle auto, più 6,5% le vendite nel 2016, molto forti in Italia, quasi il 16% di immatricolazioni in più. Tra i titoli Telecom da un lato, e ho visto un po' di debolezza anche su Mediaset, poi ha recuperato lo 0,60%. Nel corso della seduta, in verità, i titoli di Mediaset, come hai detto tu, erano molto più deboli, poi ha chiuso meno 0,6%. Sale l'attesa per la presentazione del piano strategico fino al 2020, che avverrà domani a Londra, ma intanto quest'oggi, diciamo, è uscita un po' la speculazione dal titolo, visto che, secondo indiscrezioni di stampa, la G-Com, l'Authority, sarebbe già pronta a bloccare un'eventuale OPA nel caso in cui Vivendi decidesse appunto cercando di conquistare la società televisiva. Comunque la stessa Agcom ha precisato che per adesso sta solamente portando avanti l'istruttoria che è stata aperta lo scorso 21 dicembre, come a dire che per adesso non è giunta ad alcuna conclusione, e dopo infatti tale precisazione i titoli hanno leggermente recuperato terreno, mentre questa mattina erano più in profondo rosso. Ovviamente la debolezza di Mediaset ha coinvolto anche la stessa Telecom Italia, in quanto ci si interroga sul futuro della compagnia dal punto di vista azionario, visto che Vivendi detiene il 24% della società e alla fine probabilmente dovrà decidere tra la partecipazione in Mediaset e quella in Telecom Italia. Questo dopo la Agcom. Devo dire, pochi altri spunti oggi. C'era un po' di debolezza sui titoli petroliferi, però insomma mi sembra proprio una debolezza abbastanza archiviabile. Per quello che riguarda invece i migliori e peggiori, da questo punto di vista segnalo che oggi sul listino volete sapere di Eni, vedo che mi chiedete di Eni. Eni ha fatto più 0,45%, quindi in realtà poi ha recuperato, e anche Saipem ha recuperato il 2,14%. Dicevo, tra i titoli Full Six più 19%, Sintesi più 13%, Innovatech più 13%, Club più 11%, e il fronte opposto vede invece cedere Vita, società editoriale meno 9%, Cementi Holding meno 4,40%, Acotel Group meno 4,20%, Geox meno 4%. Grazie anche all'onore Michele, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Stiamo entrando tra pochi giorni in una fase che per noi è positiva perché è ricca di eventi, ma sarà molto impegnativa, no? Quindi è uno sforzo enorme che stiamo facendo per cercare di contemperare, dando comunque la massima importanza a tutto questo discorso che riguarda l'amministrazione giudiziaria, ma nel contempo riuscire a far andare avanti l'azienda, che è decapitata, che è monca di 9 persone in organico. È chiaro che non diventerebbe una complicazione, credo, estremamente significativa per la gestione dell'azienda. Allora, quello che avete appena ascoltato è il presidente dimissionario di Fiera Milano S.p.A., Roberto Rettani, presente stamani all'udienza del Tribunale di Milano. Dopo le dimissioni del presidente, dell'amministratore delegato e di tutto il consiglio di amministrazione comunicate 4 giorni fa, tra l'altro il PM è stato molto duro, il PM della DDA milanese Paolo Storari ha detto: sono solo una mano di vernice, quella che invento si chiama Mande Bianco, e una perdita di tempo perché hanno un'efficacia differita. E ha insistito il PM con la richiesta di commissariare tutti i settori di Fiera Milano. Sara Monaci segue la vicenda per Il Sole 24 Ore. Buonasera Sara. Buonasera. Allora, Fiera Milano ha 350 milioni di fatturato e 700 dipendenti. Il commissariamento metterebbe a rischio gli 8 eventi già messi in calendario nel 2017, sì. Quindi non stiamo scherzando su questo, perché poi va bene l'indagine giudiziaria, ci mancherebbe, però attenzione anche a preservare posti di lavoro e fatturato di chi nulla c'entra. Che cosa è successo? E perché il PM va a chiedere addirittura il commissariamento? Allora, la vicenda giudiziaria è iniziata lo scorso luglio. Con un'inchiesta guidata dal pool di Ilda Boccassini, in base al quale sarebbero emerse infiltrazioni mafiosi nella partecipata Nolo Stand, che si occupava di allestimenti per alcuni padiglioni di Expo. A seguito di questa vicenda, che ha portato ad alcuni arresti e poi all'estensione di avvisi di garanzia anche a funzionari della stessa Fiera Milano, è stata già commissariata la partecipata Nolo Stand. Poi ad ottobre, appunto, con la prosecuzione delle indagini, è stata di nuovo commissariata anche quel ramo di azienda della Fiera Milano che fa capo a questa partecipata. Sono proseguite le indagini, non ci sono stati altri episodi di custodi cautelari, ma diciamo degli interrogatori secondo cui i PM, dai quali avrebbero evinto il fatto che le infiltrazioni e la criminalità organizzata potrebbe anche essersi estesa alla stessa Fiera di Milano. Per questo chiedono un commissariamento non parziale, come è stato fatto finora, ma un commissariamento totale, quindi diciamo mettere in amministrazione giudiziaria tutta la società. Che cosa è successo? peso. A questo punto, proprio dietro queste pressioni, il CDA di Fiera Milano la scorsa settimana si è dimesso in blocco. Hanno rassegnato le dimissioni 6 membri su 9 e questo ha comportato la decadenza del CDA. Ovviamente decadenza che deve poi andare al concreto soltanto in aprile, perché si prosegue con l'amministrazione ordinaria, sì, prima dell'approvazione del bilancio, come ha sottolineato anche l'avvocato proprio in risposta alle parole del PM Sorari, che in un'azienda quotata non si può andarsene via punto e basta, insomma bisogna aspettare anche l'approvazione del bilancio. Per la procura queste dimissioni non sono sufficienti, perché appunto è una operazione, dicono, di maquillage esteriore, non è stato sufficiente a frenare la possibilità di infiltrazione, quindi chiedono un commissariamento totale. Si deciderà la settimana prossima, quindi a breve, il 26 ci sarà l'ultima udienza, già il 27 probabilmente il Tribunale delle Misure di Prevenzione metterà un decreto che ovviamente i PM sperano sia il più penalizzante, sì, mentre invece la Fiera spera che le dimissioni diano proprio quel segnale di discontinuità che veniva chiesto dagli stessi PM. Io spero che tutto questo, però è chiaro che quando sei commissariata saltano anche gli eventi in qualche modo. Quantomeno sono a rischio, diciamo che sono già in calendario, ci sono 8 eventi nuovi, ricordo che la Fiera di Milano è la più importante italiana, i numeri del fatturato li hai appena ricordati tu, 350 milioni all'anno, 700 dipendenti a livello di gruppo e fa 60 eventi medi l'anno. Quest'anno, proprio per risollevarli anche da risollevare l'azienda anche da una perdita dello scorso anno, ci saranno 8 eventi in più che evidentemente ritengono che possano essere messi a rischio. Allora staremo a vedere. Sara, intanto ci terrai aggiornato tu la prossima settimana a questo punto. Grazie anche a Sara Monaci. Traffico e poi andiamo con un volo un po' pindarico dalla Fiera di Milano a Londra all'intervento di Theresa May, che ha chiarito: noi vogliamo uscire, non vogliamo status ambigui, uscire dall'Unione Europea. Discuteremo anche dell'accesso delle persone fisiche con passaporto europeo, e quindi insomma da questo punto di vista non ha offerto molti margini interpretativi. Dopo il traffico. Focus Economia. We will get control of the number of people coming to Britain. Avremo il controllo del numero di persone che arrivano nel nostro paese dall'Unione Europea, perché il giusto controllo sull'immigrazione può portare grandi benefici nel colmare vuoti di competenze, nell'offrire servizi e nel dare alle imprese britanniche il giusto contesto per crescere. Quando il numero di persone è troppo alto, il sostegno pubblico al sistema si indebolisce. Nell'ultimo decennio abbiamo visto l'immigrazione nel nostro paese raggiungere livelli record e questo ha messo sotto pressione i servizi pubblici come le scuole, la casa e ha fatto abbassare i salari della classe operaia. Sono stata ministro dell'Interno per 6 anni e so che non si può controllare pienamente l'immigrazione se c'è libertà di movimento dall'Europa verso di noi. Siamo un paese aperto e tollerante. Abbiamo sempre voluto l'immigrazione, specialmente quella di più alto profilo. Vorremmo sempre avere immigrati dall'Europa e accoglieremo come amici coloro che arriveranno singolarmente. Ma il messaggio della nostra gente, prima e dopo il referendum, è stato chiaro. La Brexit deve portare al controllo del numero di persone che arrivano da noi dall'Europa. E questo faremo. Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe. And that is what we will deliver. Allora, così Theresa May oggi, ma in un discorso alla Lancaster House a Londra, che poi ha detto: abbandoniamo l'Unione Europea e costruiamo una Gran Bretagna veramente mondiale. Un accordo punitivo sulla Brexit da parte dell'Unione Europea non sarebbe un gesto da amici. L'accordo verrà fatto entro 2 anni, ma flessibile. Vogliamo un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, ma non intendiamo contribuire al bilancio europeo. Allora, Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, buonasera. Buonasera. Dunque, da un lato c'è una May, come la capisco io, che va dritta per la sua strada: no, controlleremo anche i flussi di cittadini europei, l'abbiamo appena sentito, ma poi dice: attenzione, non sarebbe da amici avere un accordo punitivo sulla Brexit da parte di Bruxelles, vogliamo mantenere un accordo di libero scambio. Allora, insomma, va dritta per la sua strada o comunque si tiene sempre l'ipotesi B aperta? No, a me sembra che il discorso di oggi sia stato quanto mai chiaro. Cioè, per la prima volta, diciamo, in 7 mesi c'è stata la volontà di mettere un punto fermo. Il punto fermo è: siamo fuori da tutto. Poi rinegoziamo, ma noi usciamo da tutto: mercato interno, unione doganale, perlomeno quella è stata un po' più sfumata, ma la volontà è quella di uscire anche dall'unione doganale e eventualmente rinegoziarla. Dopodiché dice chiaramente è una trattativa, quindi qualcuno deve dare, qualcuno deve prendere, ci sono anche delle partite finanziarie aperte, si parla di 50-60 miliardi che l'Unione Europea potrebbe richiedere alla Gran Bretagna, e se questo dovesse avvenire in quella misura Londra la considera chiaramente un atto di ostilità, quindi ci sono delle partite anche del genere. Ecco, la sensazione, Theresa May ha detto, se si vuole fare della Gran Bretagna l'esempio per gli altri, cioè puniamo la Gran Bretagna per evitare che queste cose diventino, come dire, si diffonda questa volontà di uscire dall'Unione Europea, eccetera, beh, noi reagiremo. E come reagiremo? E su quello è stata chiarissima, reagiremo con una guerra commerciale, tagli alla corporate tax, faremo di tutto per diventare il paese dumping fiscale, diventeremo il paese più attrattivo, diciamo, del pianeta, pur di riuscire a tutelarci da queste. Poi quanto tempo siano in grado di reggere una cosa del genere? Sì, questo è il tema. Allora, è chiaro che l'Inghilterra, la Gran Bretagna ha dei conti pubblici messi molto meglio dei nostri, però anche lì. Sì, però ha un debito che comincia a avvicinarsi perché è intorno al 90%, e soprattutto la Gran Bretagna, non dimentichiamocelo, ha un debito privato elevatissimo. Cioè è l'opposto dell'Italia, dove abbiamo ancora una bella quota di risparmio privato e abbiamo un alto debito pubblico. Loro hanno un debito pubblico sicuramente più basso, però vicino al 90%, e hanno però un indebitamento privato molto più forte a partire da quello per la casa e non solo. Per cui ho capito che tu puoi fare dumping fiscale, però poi questo ti costa perché hai meno entrate. Tu mi puoi dire no, ma avrò più giro d'affari, tutto da vedere, intanto hai sicuramente meno entrate e poi bisogna vedere cosa fanno gli altri paesi. E non penso che l'Irlanda starà ferma, e sappiamo che la fiscalità in Europa è tutta una macchia di leopardo, per cui non so come tu possa... Però si va in quella direzione lì, cioè se loro incominciano questo tipo di, come dire, di guerriglia, rischia comunque di essere destabilizzante, perché escano poi dei meccanismi. Vabbè, e lì però bisogna vedere se c'è un'Europa come controparte, perché un conto è avere l'Europa, un conto... avere la Germania, la Francia, l'Italia. Questo è il tema vero, cioè l'uscita britannica toglie, come dire, straccia il velo. Adesso l'Unione Europea deve andare avanti a fare quelle cose che per tanto tempo ha detto di non poter fare perché la Gran Bretagna frenava, e indubbiamente in una certa misura era anche così, ma era diventata anche una scusa poi per evitare di procedere. Adesso che non c'è più l'equivoco britannico, la situazione va presa in mano dagli altri paesi dell'Unione. Vedremo poi cosa capiterà in Germania e in Francia. Ripeto, i tempi non sono strettissimi, ci sono 2 anni di trattative, da marzo, quando verrà impugnato l'articolo 50 in poi, sono 2 anni, però importante indicazione che è arrivata. Adesso ha sciolto le riserve, anch'io notavo. Ecco, credo l'ultima agenzia che riguarda Bruxelles, ma riguarda l'Italia in questo caso. Però dicevo, anch'io notavo che era una Theresa May più chiara, netta del solito. Grazie anche a Leonardo Maisano. Allora, l'ultimo flash agenzia che vi do prima di chiudere il programma è invece quello che arriva dalla Commissione Europea, che chiede all'Italia misure aggiuntive dello 0,2%, i famosi 3 miliardi e 400 milioni, per evitare l'apertura di una procedura per deficit eccessivo per il non rispetto della regola del debito, e occorre una risposta pubblica che comprenda impegni specifici sufficientemente dettagliati e un chiaro calendario per la loro rapida azione legale. Quindi entro febbraio si aspetta da Roma misure chiare e le date per ottenere questa correzione del deficit. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.